Aziende e istituzioni. 800-800-007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Di Filippo Astone. Buongiorno, molti di voi ci stanno ascoltando molto probabilmente dalla loro auto. Ebbene, in futuro, e anche già ora, quell'auto sarà elettrica. C'è uno studio di Morgan Stanley che dice che le auto elettriche saranno il 16% del totale nel 2030, il 51% nel 2040 e ben il 69% nel 2050. Questi studi sembrano spesso astrologia pura, però comunque danno l'indicazione di una tendenza importante. Auto elettrica vuol dire che cambia tutta la filiera dell'auto, che cambiano le fabbriche, che cambia il modo di lavorare e che cambia il modo di lavorare dei fornitori. Quindi è una rivoluzione che riguarda in modo pesante la manifattura. Voi pensate che noi italiani abbiamo ormai perso la leadership nell'automobile, che comunque per quanto viene prodotto da noi vale ancora 20 miliardi, ma siamo i secondi al mondo nel settore della componentistica, che vale 40 miliardi, e i componentisti saranno molto toccati da questa rivoluzione dell'alimentazione elettrica. Pensate, cambierà il modo di fare i motori e cambierà tutto. Tra l'altro, questi argomenti sono in discussione al Salone dell'Auto di Francoforte, che si tiene proprio in questi giorni. Lì BMW ha annunciato che tutte le sue auto saranno elettriche nel 2025 e sta presentando in questo momento a Francoforte ben 12 auto. Volkswagen si è addirittura data l'obiettivo di diventare il leader mondiale nella trazione elettrica. Ora, il Made in Italy in tutto ciò è pesantemente toccato. Oggi, ad esempio, parliamo con un'azienda che non è un componentista, è un'azienda di meccatronica, ma sta producendo delle cose molto importanti per quanto riguarda l'elettrificazione. In particolar modo c'è un kit che permette di trasformare in elettrici gli autobus e i camion, è una cosa che va molto in Cina, e poi ha un sistema per ovviare al problema della ricarica della batteria. Invece di ricaricare la batteria, ci sono delle stazioni che sono fatte da questa azienda che si chiama SMRE, oppure SMRE. Ecco, queste stazioni permettono di togliere la propria batteria, metterla in carica e subito mettere un'altra batteria già carica nella propria auto. In questo modo si supera il problema dei tempi di ricarica e anche il problema delle centraline. SMRE è anche quotata al listino AIM, e oggi noi ne parliamo con l'amministratore delegato Samuele Mazzini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci spiega brevemente che cos'è il battery swap e come funziona questa macchina che voi avete brevettato per fare il battery swap? Ma diciamo che è un po' un sistema che nell'aria c'è da tanti anni, nel senso che se ne parla molto. L'idea più facile era quella dell'idea di un distributore di benzina che, anziché distribuire benzina, distribuisce batterie. Chiaramente è un'idea non nuova, però metterla in funzione lei capirà che è molto complesso, perché non ci sono standardizzazioni di batterie, ogni casa costruttrice produce le sue, e quindi c'è tutta una serie di motivazioni che ne hanno bloccato negli anni lo sviluppo. Noi lavoriamo in Oriente invece con grandi gruppi che sono coloro che fanno il delivery dell'energia e che quindi hanno la capacità di imporre sul mercato, o in determinati mercati che sono macro nicchie di grandissime dimensioni, una standardizzazione e quindi la possibilità di fare un intercambio automatico delle batterie. Macro nicchie sarebbero ad esempio i camion per la logistica. Camion per la logistica, raccolta rifiuti, tutti quelli che sono i veicoli destinati a uno scopo. In Cina si sta facendo già questo nel mondo dei taxi, ad esempio. Vengono imposte delle caratteristiche e quindi il costruttore di taxi... Ma voi avete disegnato e progettato solo questo meccanismo per il battery swap o lo producete anche? Avete delle fabbriche che lo fanno? Allora, guardi, noi facciamo tutta la filiera del veicolo elettrico, principalmente la parte di motorizzazione e la parte di batterie. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando e verrà praticamente messo in produzione di serie dalla metà del 2018. Ecco, voi tra l'altro avete annunciato che il vostro fatturato triplicherà, cioè oggi avete un giro d'affari di circa 10 milioni e nel 2018 dovreste arrivare a 30 milioni. Sì, questo, noi viviamo in un mondo che sta decollando a velocità supersoniche. Lei consideri che abbiamo chiuso la semestrale qualche giorno fa e la divisione della parte elettrica ha già registrato nel primo trimestre un più 200%. Quindi purtroppo corriamo dietro al tempo, non dietro agli ordini. Gli ordini ci sono, non siamo abbastanza veloci per poter moltiplicare, quindi un per tre è un qualcosa di molto fattibile. Ecco, pensate che il titolo di questa SMRE che è quotata all'AIM è aumentato del 300% a partire dalla quotazione che è avvenuta nel 2016 e del 200% da inizio anno. Insomma, sì. Sono bei numeri, Mazzini? Sono bei numeri, sì. Diciamo che noi viviamo costantemente, le dico la verità, non siamo ossessionati dal titolo perché siamo un'azienda di engineering produttiva, siamo molto contenti delle performance, che chi ha creduto in noi ha avuto risultati, ma siamo anche convinti che i risultati verranno anche più buoni di quelli che abbiamo visto fino ad oggi, insomma. Ecco, questa nostra è un po' una puntata dedicata alle aziende manifatturiere dell'AIM. L'AIM non è solo un listino di start-up o di piccolissime aziende, ma ormai, come vedremo nella seconda parte, tra l'altro in coda ci sarà anche un'intervista ad Anna Lambiase di IRTOP, che ha fatto delle rilevazioni sulla parte industriale dell'AIM. Ecco, l'AIM è un listino anche di manifatturieri e i manifatturieri quotati all'AIM sono quelli che performano meglio. Intervisteremo anche nella seconda parte la Clabo che fa banchi frigo. Ma torniamo a SMRE. Senta, ma invece questi kit per l'elettrificazione che voi fate, come sono fatti e come funzionano? Allora, noi diciamo che facciamo il primo equipaggiamento. Allora, siamo nati con l'idea di creare dei kit di trasformazione del veicolo esistente, cioè quindi un camion nato Euro 5 che oggi non può più entrare in centro a Milano può essere retrofittato e diventare un emissioni zero. Questa era l'idea principale nata circa 5-6 anni fa. Oggi siamo già alla seconda generazione, ovvero noi iniziamo ad equipaggiare i veicoli che vengono prodotti da costruttori direttamente con i nostri sistemi brevettati. Ecco, molto interessante. Poi comunque c'è tutta la parte che riguarda automazione meccatronica, perché voi siete un'azienda, diciamo, con due parti, quella sul elettrico per l'automotive che è in via di sviluppo e poi quella vostra tradizionale che riguarda invece l'automazione. Ci racconta che cosa fate nella parte automazione? Ma allora, nella parte automazione di fatto nasciamo come problem solver, ovvero di costruire macchine in settori industriali dove le macchine non ci sono in produzione di massa. Quindi sviluppiamo macchine custom sulla richiesta del cliente. Le faccio un esempio: noi in questi giorni siamo ad una fiera in Germania perché abbiamo le macchine per tagliare la fibra di carbonio, il Kevlar, per il settore aeronautico e defense. Cioè la fiera EMO? La fiera dedicata al Camtech, dedicata ai veicoli. Ah, non è l'EMO, ok, vado avanti. Quindi voi siete problem solver della manifattura perché praticamente fate macchine su misura e su ordinazione, macchine produttive su misura e ordinate ad hoc? Esatto, questo è un po' quello che facciamo. Poi, risolto il problema per una nicchia di un settore, la percorriamo, perché ha risolto il problema del taglio del Kevlar, lo abbiamo risolto per tutte le aziende del mondo che devono tagliare il Kevlar, quindi dopodiché sfruttiamo questa esperienza e la portiamo avanti nel tempo, per fare un esempio. Ecco, benissimo. Nella seconda parte avremo Clabo e parleremo ancora del Lyme. Tra l'altro questa settimana, oltre che il Salone di Francoforte, la notizia è l'aumento del PIL. Il Centro Studi di Confindustria ha diffuso ieri delle stime per l'aumento del PIL dell'1,5%. Queste stime anche vanno insieme a quelle sulla produzione industriale che aumenterà e ad altri indicatori positivi. Sembra che siamo entrati nella ripresa. La mia opinione personale è che però è una ripresa che c'è, ma è lentissima. Prima che si recuperino i dati pre-crisi dovranno passare 10 anni. Comunque di questo ci occuperemo nella prossima puntata, parlandone con Mario Carraro e con un economista dell'Università di Padova. Adesso saluto il Samuele Mazzini, arrivederci. Arrivederci, grazie a voi, grazie a tutti. I nostri ascoltatori adesso hanno una bella piccola pausa per avvisi sul traffico e pubblicità e poi seconda parte di Fabbrica 2.4. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta... Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di SMRE, che è questa piccola impresa italiana manifatturiera che fa queste cose ad alto contenuto innovativo nel mondo del motore elettrico e dell'automazione. C'è tutto un tessuto di imprese di questo tipo in Italia, un tessuto che rappresenta la nostra ricchezza e la nostra speranza, ma non ci sono solo queste. Pensate che molte di queste aziende sono quotate all'AIM, che una volta era un mercato delle imprese innovative, delle start-up, del software, e all'inizio era un mercato che, diciamo la verità, faceva anche un po' ridere. Io quando facevo giornalista al Mondo ed era partito Lime, ce la ridevamo tra di noi in redazione, adesso io prendo mia zia e la quoto a Lime e magari raccolgo 1 milione di euro. E invece è diventata una cosa importante, dove ci sono molte aziende industriali, e di questo ne parleremo fra pochi minuti con Anna Lambiase di IRTOP. Intanto però volevo sentire un'altra azienda industriale produttiva quotata all'AIM, che è la Clabo. Abbiamo qui ospite l'amministratore delegato Pierluigi Bocchini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, voi fate circa 37 milioni di euro e producete praticamente i frigoriferi e gli espositori per i gelati e i dolciumi in tutto il mondo, no? Questo? Esattamente, produciamo banchi per l'esposizione del gelato e della pasticceria artigianali, che vengono poi esportati e venduti un po' in tutto il mondo, poiché vendiamo, ormai siamo arrivati a una percentuale che sfiora il 70% di vendite fuori dal mercato domestico. Infatti quello che avete in comune con SMRE, o SMRE che dirla si voglia, è la Cina. Sì, abbiamo recentemente, proprio a fine febbraio, primi di marzo, acquisito il principale operatore sul mercato cinese che produceva esattamente i nostri stessi prodotti, e questo ci ha consentito finalmente di penetrare un mercato abbastanza complicato per le aziende italiane nel nostro mondo, perché noi produciamo dei prodotti abbastanza voluminosi. E quindi dovete produrre in loco, perché sennò spedire i banchi gli espositori dall'Italia. E comunque interessante, perché ormai adesso c'è un po' un allarme perché sono i cinesi a comprare noi, invece siete voi che avete comprato un cinese. Ecco, questa è una cosa che ci inorgoglisce abbastanza. Dobbiamo essere onesti nel dire che la nostra, in generale il nostro mondo, è un mondo molto italiano. Quando parliamo di gelato e pasticcerie artigianali, parliamo di una filiera italiana nata in Italia con aziende italiane, sia nel mondo degli ingredienti che nel mondo dei macchinari per la produzione di questi dolciumi o gelati, e quindi anche nel mondo degli espositori. Però certo, per un'azienda italiana, mi lasci dire, è un vanto e un orgoglio poter andare in Cina ad acquistare il principale player locale del proprio settore. Certamente, senta, voi avete brevettato un espositore per gelati e dolciumi che si chiama Jobs, come Steve Jobs, e c'è un uso delle nanotecnologie. Ci racconta di che cosa si tratta? Sì, allora, come penso immaginate, i nostri espositori, abbiamo già detto peraltro, sono dei prodotti abbastanza ingombranti. All'interno delle pasticcerie e delle gelaterie, immagino anche i nostri ascoltatori si ricorderanno che questi espositori sono abbastanza voluminosi. Sì, sì, ecco appunto questo spazio. Jobs. Il Jobs in realtà è un vassoio refrigerato, che utilizza appunto le nanotecnologie nella costruzione e nell'impiego dei materiali per poter ridurre gli spessori e in generale i volumi dedicati generalmente a questi espositori, e quindi aumentare lo spazio invece dedicato all'esposizione dei prodotti, che è quello che fa vendere. Ecco, una cosa che mi ha colpito è che siccome voi producete beni strumentali, anche i vostri espositori rientrano nel superammortamento del famoso pacchetto Calenda. Uno si aspetta che ci siano solo le attrezzature super high tech, invece ci sono anche questi espositori per gelati. Sì, perché sono super high tech anche questi. Lei si immagini che Jobs utilizza oramai a pieno la tecnologia della domotica, per cui il nostro professionista gelatiere pasticcere è in grado di controllare temperatura, umidità, illuminazione e addirittura le operazioni di accensione e spegnimento del proprio banco direttamente dal laboratorio o da casa, e addirittura avendo inserito una webcam all'interno del banco, di questo vassoio refrigerato, da casa propria può controllare che il prodotto venga esposto magari dai propri dipendenti in modo adeguato, nel modo in cui lui ha richiesto. Fantastico. E adesso andiamo da Anna Lambiase di IRTOP. Buongiorno. Buongiorno. Per parlare di AIM, il listino che una volta era quello della alta tecnologia, delle start-up, diciamocela tutta, anche della fuffa, e adesso sta sempre più diventando il listino delle società industriali. Pensate che l'industria, certo, rappresenta solo il 14% delle società, ma ben il 29% dei ricavi complessivi delle aziende che sono quotate all'AIM. E la cosa interessante è che soprattutto sono aziende che sovraperformano le altre, cioè le aziende industriali quotate all'AIM vanno meglio dell'AIM e meglio delle altre. Su questo la IRTOP, che è guidata appunto da Anna Lambiase, che è qui con noi, ha fatto uno studio, no? Sì, dottore, è vero, le confermo proprio questi dati. Le nostre analisi direi che affermano questo scenario molto positivo delle aziende industriali sul mercato AIM. Le vorrei dare tre dati. Ecco, i ricavi medi del 2016 hanno segnato una crescita del comparto industriale del più 8%. Uh-huh. Lo stesso è stato all'8% la crescita dell'EBITDA, e se pensiamo, la crescita media degli occupati è stata più 13%. Consideriamo che questo comparto oggi occupa circa 6.600 dipendenti, quindi una quota importante del mercato. Certo. Effettivamente l'industria infatti si sta confermando come uno dei settori più rappresentativi dell'AIM, come ha detto lei, e rispecchia anche gli elementi distintivi della nostra tessuto imprenditoriale, della nostra riconoscibilità a livello internazionale. Sì, perché poi sono aziende come Modelleria Brambilla, come Clavo, come SME, che sono tutte aziende che esistono anche da 2-3 generazioni, sono aziende solide. Certo, andiamo dall'automotive alla gioielleria, altri settori rappresentati sono la cosmetica, la pelletteria, gli impianti di produzione. Si tratta di aziende familiari, direi con una forte propensione ai mercati esteri e all'innovazione. E questa crescita importante dei fondamentali si è riflessa anche sull'andamento positivo dei titoli in borsa, con una performance dei titoli superiore all'andamento dell'indice FTSE AIM. Ci può dare qualche numero sui titoli industriali all'AIM? Certo, allora la performance del settore dell'AIM industriale segna più 58% da gennaio. Consideri l'indice FTSE, siamo di poco superiore al 24%. Mm-hmm. E poi abbiamo delle eccellenze, perché abbiamo anche titoli che, come questi due che abbiamo appena sentito, Club e SME, hanno segnato performance decisamente superiori a tre cifre, insomma, rispetto alla media. Guardo anche l'EBITDA in termini assoluti, è molto interessante, perché Club ha un EBITDA dell'11%, Modelleria Maria Brambilla, che è stata ospite nella scorsa stagione di questo programma, dell'11,2%, SME del 9,7%, Cover 50 del 22,4%, SIT del 15%, quindi sono aziende che guadagnano bene, che fanno utili interessanti. Non è detto che per fare utili interessanti uno debba fare software o alte tecnologie informatiche o dell'ICT. Anche con l'industria si possono fare degli utili importanti. Non a caso noi siamo accaniti tifosi dell'industria, e io l'anno scorso chiudevo questo programma tifando per l'industria e lo farò ancora. Che dice Lambiase? Confermo, il dato medio di EBITDA margine è 11%, se vuole le do anche un identikit di ricavi medi, 82 sì. milioni di euro, quindi una dimensione anche media superiore in termini di fatturati alla media del mercato AIM, per cui si tratta di aziende effettivamente ben capitalizzate, con una buona dimensione, una redditività di tutto rispetto e una capitalizzazione anche superiore ai 70 milioni, che supera la media. Poi del adesso mercato. Con l'avvento dei PIR arriverà un sacco di denaro su queste aziende. È già arrivato, sicuramente. È già arrivato ed è finito? No, no, certamente i PIR comunque hanno una validità che si estende su un arco temporale di 5 anni, quindi diciamo che da gennaio, dall'introduzione dei PIR, c'è stato sicuramente un impatto molto positivo su queste aziende. Agli investitori le aziende industriali piacciono molto, quindi c'è un forte appeal dell'industria italiana. Sì, non è solo l'AIM, è anche l'altro listino, quello delle medie capitalizzazioni. Certo, però sull'AIM è più facile quotarsi, quindi c'è un processo accelerato, più semplice, quindi è un mercato che piace molto alle imprese, piace molto agli investitori. Infatti le nuove quotazioni sono rivolte molto a questo settore industriale. Io vedo parecchie aziende anche per il futuro di natura industriale affiancarsi. Si può fare qualche nome di quelle che hanno dichiarato in futuro la volontà di quotarsi all'AIM? Qualche nome non se lo ricorda adesso. Va bene, dobbiamo chiudere. Pierluigi Bocchini è ancora in linea? Sono qui. La saluto Anna Lambiase e noi ci risentiamo sabato prossimo. Viva le fabbriche, viva l'industria, viva l'acciaio, viva i robot. Buon sabato.